prendo sulla moto, andiamo via. Non voltarti mai, perché stavolta non ti lascerò tornare indietro, sai. Vieni via con me, che non avrai niente da rimpiangere. Via da cose che non ti appartengono, la vita, sai, non è poi tutta qua. Va giù il sipario e non dà la realtà. Via, sai dove si va, dove vuoi tu, e senza meta andremo oltre limiti e confini. Liberi vedrai, faremo cose che non hai osato immaginare mai. Andiamo sostenibili apparenze, via sorrisi falsi ed espressioni, frasi ipocrite, via contro ogni cliché, più che apparire scegli d'essere. Via, al mondo sai non c'è niente di più irresistibile che fare quello che ti pare ed essere solo quel che sei, semplicemente unica e speciale, non è il caso di aspettare. Via.